140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Buongiorno da Marta Cagnola. Gli spettacoli, i protagonisti, le storie, il dietro le quinte. Abbiamo seguito tutti gli eventi questa settimana con Radio 24. Li abbiamo raccontati in tempo reale su Twitter, seguendo il nostro account ufficiale @140caratteriR24, ma anche la nostra pagina Facebook 140 caratteri. Come ogni settimana, mano a mano ci avete anche mandato in diretta via Twitter le vostre domande. Ecco gli spettacoli di questa settimana dalla viva voce dei protagonisti. Musica e televisione nella nostra puntata di oggi di 140 caratteri. Hotel Boscolo, Milano. Opera seconda, così si intitola il nuovo album dei Pooh, che hanno aperto gli armadi e scoperto vecchi vestiti ancora buoni da indossare. Ma è successo proprio così, perché c'erano degli abiti che avevano vestito delle emozioni importanti, e in questo caso i nostri abiti sono le canzoni. Sì, abbiamo tolto le spalline degli anni 80 piuttosto che la scampanatura degli anni 70 ai pantaloni, e li abbiamo ridisegnati un pochino, ma la stoffa, il materiale era quello buono. Ecco perché ne è uscito un disco vero, sincero, con delle parti nuove completamente riscritte, ma dei personaggi vecchi che non so se dire purtroppo per fortuna, ma sono ancora attuali, perché il problema di Pierre e dell'omosessualità non è stato certo risolto, nonostante l'outing di qualche collega. Il problema di voi femmine in quanto femministe degli anni 70, con le vostre barricate, le vostre piazze di maggio, è stato risolto a metà, e poi se vi siete consegnate a un'immagine non certo simile a quella che difendevate, e tuttora le donne vengono uccise e violentate almeno una al giorno nel nostro paese. Dai familiari, da mariti, da fidanzati. Il sogno è l'unico valore che noi abbiamo, l'abbiamo raccontato in Lindbergh, in Maria Marea, che per il loro sogno riescono a scappare da una realtà o comunque a costruirsi una realtà nuova, ma purtroppo ci accorgiamo che quei sogni che noi avevamo negli anni 70, che erano sogni che andavano lontano, oggi i nostri figli non possono più farli. E allora abbiamo rimesso insieme questi personaggi per ridare loro una possibilità, una seconda chance di raccontarsi. La guardai ed ebbi un momento di pena, perché sembrava smarrita. Io vorrei, mi disse, vorrei che non fosse così, ma è proprio finita. Disse poi, ritrovando un sorriso assento, comunque l'ho voluta. Lo sai, le strade per farmi del male non le sbaglio mai. Poi mi raccontò la storia che io sapevo già. Dall'ultima volta si sentiva che era più sola e più cattiva. Roby, le feste si fanno con gli amici, non si fanno da soli, e voi avete invitato alcuni amici particolarmente ai quali siamo affezionati tutti per questa opera seconda. Sì, Mario Bioni, perché va detto che anni fa, prima che lui diventasse Mario Bioni appunto, ci mandò un CD con Ci penserò domani, cantato da lui, e avendo scelto giustamente anche Ci penserò domani in questo progetto, l'abbiamo chiamato. Insomma, dopo 3 o 4 giorni era in sala incisione a cantare il brano. Questo per quanto riguarda Bioni. Invece, per quanto riguarda l'altro ospite, Maria Marea, che è appunto Claudio Baglioni, diciamo che Maria Marea sembra un brano pensato, scritto da Red, però pensato da proprio anche come arrangiamento, sembra fatto apposta per Claudio, anche perché ascoltando il brano anche lui ha capito che solo lui lo poteva cantare. Addirittura ha anche aggiunto un qualcosa di suo, no? Melodicamente, in una parte che era prevista un parlato, invece lui ci ha fatto addirittura un motivo sopra. Questo per dirti quanto è carino e quanto siamo amici, no? È stato felicissimo, più di noi, a esserci anche lui in questo progetto. Strano, il microfono è come un bambino, gli parlo e non so se dorme o mi ascolta, la luce è sciolta nel caffè, sei. E non posso non chiedervi, visto che insomma io lavoro alla radio, siamo alla radio, c'è una canzone magica che riguarda la radio che è in diretta nel vento. Dodi, è ancora magica la radio? Ma secondo noi sì, è uno dei motivi per cui abbiamo voluto inserire questo brano, e ci è sembrato tenero, vista la grande evoluzione di quello che è stato appunto l'ambiente radiofonico, la grande professionalità che è venuta fuori da quei tempi, riaffrontare questo tipo di humus, no? Di modus vivendi legato alle prime radio, a questa sperimentalità, no? Che c'era ai tempi, con questo brano riaffrontato, ed è bello vedere che a tutt'oggi è ancora attuale. Auditorium Parco della Musica, Roma. Sono pazzi, i ragazzi li adorano. Maccio Capatonda, Herbert Ballerina, Mattatori al Roma Fiction Fest con una serie, come sempre, surreale. La miniserie si chiama Babbala e il ragazzo idiota ed è una, appunto, come ho già detto, miniserie a puntate di 3 minuti e qualcosa, sono 10 puntate. La serie parla delle avventure di questo ragazzo idiota che viene, si caccia spesso nei guai e viene spesso salvato dal suo grande amico che si chiama Babbala, che è un Bigfoot, uno scimmione. E la serie nasce da una mia passione la mia passione per una vecchia serie che si chiamava Bigfoot and Wild Boy degli anni 70, che ho, diciamo, riportato al giorno d'oggi e ho trasformato in Babbala il ragazzo idiota. E che dire, nasce anche da Flop TV, perché Flop TV è quella che comunque c'è la richiesta e quindi meno male, direi io. Vuoi dire qualcosa su Babbala e il Pallone? Io voglio sapere anche, scusami, perdonami, voglio sapere del cast, perché so che è il regista che però si è ritagliato un ruolo notevole. Un ruolo difficile, tra l'altro, che io faccio lo scimmione con questo costume micidiale, che abbiamo girato a giugno, qua, a 30 gradi. Non è morto per caldo, per un velo. Ho rischiato la morte. Come ti sei calato nella parte? No, non mi drogo io. Non mi sono calato nella parte. Ah no, non mi sono calato nella parte. Diciamo che il ragazzo idiota mi esce bene, però poi quando metto la parrucca mi sento subito idiota. Cioè anche senza, però. Come hai fatto a interpretare? Cioè come lavori quando lavori sul personaggio? Come lavoro sul personaggio? faccio degli studi, mi faccio dei vari metodi. Strasberg. Pilates. Dalle sterminate foreste milanesi arriva il leggendario Babbala. Babbala! Che molti anni fa salvò un ragazzino da un grave pericolo. E si legò inesorabilmente a lui per proteggerlo. Fino a farlo diventare un ragazzo idiota. Ho trovato 500 euro. Di chi sono? Ho trovato 500 euro. Sono suoi? Sì, sì, certo, sono i miei, grazie. Molto gentile, grazie. Stai più attento la prossima volta. Naturalmente, grazie. Come prendete l'accoglienza del pubblico? Perché quando arrivate voi, arrivano quelli con telefonini, le macchine fotografiche, vogliono la foto. Che effetto vi fa? Prima era bello, adesso pure. Ritorniamo insieme con gli incontri, gli eventi, i protagonisti di una settimana di spettacoli. Li abbiamo seguiti tutti in tempo reale via Twitter giorno per giorno tra conferenze e presentazioni stampa. La musica nella seconda parte del nostro 140 caratteri. Noise Factory, Milano. Avvocato, pianista e compositore, con il quarto album Viaggiatore Immobile, la consacrazione, anche grazie alle foto di Oliviero Toscani, Remo Anzovino.